Canto 26esimo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 26esimo. Godi Firenze, poi che sei sì grande, che per mare e per terra batti l'ali, e per l'inferno il tuo nome si spande. Tra li ladron trovai cinque cotali tuoi cittadini, onde mi vien vergogna, e tu in grande onranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da picciol tempo di quel che prato non ch'altri t'agogna, e se già fosse, non saria per tempo. Così fossei da che pur esser dee, che più mi graverà con più m'attempo. Noi ci partimmo, e su per le scalee, che n'avean fatte i borni a scender pria, rimontò il duca mio, e trasse mee. E, proseguendo la solinga via, tra le schegge e tra rocchi dello scoglio, lo piè senza la man non si spedia. Allor mi dolsi, ed ora mi ridoglio, quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi, e più l'ho ingegno a freno ch'io non soglio, perché non corra che virtù non guidi. Sì che se stella buona o miglior cosa m'ha dato il ben, ch'io stesso non m'invidi. Quante il villan ch'al poggio si riposa nel tempo che colui che il mondo schiara la faccia sua a noi tien meno ascosa, come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove vendemmie d'ara. Di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia, sì com'io m'accorsi tosto che fui là vel fondo parea. E qual colui che si vengiò con gli orsi, vide il carro d'Elia al dipartire, quando i cavalli al cielo erti levorsi, che nol potea sì con l'occhio seguire, che vedesse altro che la fiamma sola, sì come nuvoletta in su salire. Tal si movea ciascuna per la gola del fosso, che nessuna mostra il furto, ed ogni fiamma un peccatore invola. Io stava sovra il ponte a veder surto, sì che s'io non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù, senza esser urto. E il duca, che mi vide tanto atteso, disse: «Dentro dei fuochi son gli spirti, ciascun si fascia di quel che gli è inceso». «Maestro mio», risposi, «per udirti son io più certo, ma già mi ravviso che così fusse, e già volea dirti: chi è in quel fuoco che vien sì diviso di sopra, che par surger della pira, ove Teocle col fratel fu miso?» Risposemi: «Là entro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alle vendetta corron come all'ira. E dentro dalla lor fiamma si geme l'agguato del caval che fe la porta, ond'uscì dei romani il gentil seme. Piangevisi entro l'arte, perché morta dei Damia ancor si duol d'Achille, e del Palladio pena vi si porta. Se i posson dentro da quelle faville parlar, diss'io, maestro, assai ten priego, e ripriego che il priego valga mille, che non mi facci dell'attender niego, finché la fiamma cornuta qua vegna. Vedi che del desio ver lei mi piego». Ed egli a me: «La tua preghiera è degna di molta lode, ed io però l'accetto. Ma fa che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me, che ho concetto ciò che tu vuoi, che sarebbero schivi, purché i fur greci, forse del tuo detto. Poi che la fiamma fu venuta quivi, ove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare udivi: o voi che siete due dentro ad un fuoco, s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, s'io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi, non vi movete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi, la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: «Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno, là, presso a Gaeta, prima che sia Enea la nominasse, né dolcezza del figlio, né la pietà del vecchio padre, nel debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore che io ebbi a divenir del mondo esperto e dei divizi umani e del valore. Ma misimi per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui deserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Marocco e l'isola de Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravam vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta over quelle segnò i suoi riguardi, acciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibiglia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia de vostri sensi, che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza. I miei compagni fec'io sì acuti con questa orazion picciola al cammino ch'appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, de remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non surgea di fuor del marin suolo. 5 volte era acceso, e tanto è casso, lo lume era di sotto dalla luna, poi che entrati eravamo nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto, quanto veduta non aveva alcuna. Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto, che dalla nuova terra un turbo nacque, e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso, e la prora ire in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sopra noi richiuso. Fine del canto 26.